Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Uno dei pensieri che ancora maggiormente mi sorprende è la velocità con cui siamo cambiati in questo paese negli ultimi 50 anni. Io lo noto osservando quella che è la mia attività professionale. Normalmente mi occupo di considerare, soppesare e commensurare la mia contemporaneità. In particolare ho una mia personalissima attitudine nel valutare quelle che chiamo le protesi emozionali, quindi gli strumenti di comunicazione elettronici. In questo momento sto cercando di capire se Google Plus riuscirà a rimpiazzare Facebook nel campo del social networking. Questo è quello che faccio adesso. Mi sento ancora interessato, vivace e appassionato da questa particolarità dell'epoca in cui sto vivendo. Ma allo stesso tempo ho un ricordo che spesso ho raccontato a questi microfoni, che sembra impossibile che sia vissuto da me, dalla stessa persona che in questo momento sta studiando i social network. Ricordo che alle mie classi elementari c'erano appesi alle pareti dei grossi manifesti che ci spiegavano come stare attenti a non saltare sulle bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale. E noi eravamo spaventati da questi bambini mutilati che mettevano i piedi sulle bombe, saltavano in aria, poi c'erano i bambini che piangevano con la stampellina, con la gruccia, qualcosa che sembra non appartenere alla mia generazione, eppure io me le ricordo queste cose, me le ricordo perfettamente. Mi ricordo la cassetta con le bombe finte oppure inerti che venivano portate a scuola, ci spiegavano questa non la prendere, questa non la smontare, perché? Perché accadeva, noi ragazzi che facciamo le scuole elementari negli anni 60, ogni tanto trovavamo qualche caricatore di qualche esercito in fuga o in inseguimento, abbandonato sottoterra o in qualche stalla di contadino, e ci divertivamo a smontare le cartucce o prendere gli spaghetti di cordite e con quello facevamo meravigliosi giochi pirotecnici. Sembra impossibile. Io ho vissuto quell'epoca. Quindi oggi, in un momento particolare in cui ci sono i sindacati, alcuni sindacati, un sindacato anzi in piazza, in cui ogni giorno i titoli dei giornali insistono sul fatto che dovremmo cominciare a riconsiderare anche quelle che consideriamo le sicurezze del nostro benessere, mi piacerebbe fare un salto all'indietro, raccontare proprio sull'onda dello stesso paradosso che anni nella mia esperienza personale, quello che era questo paese negli anni attorno al boom economico, anni in cui, di cui abbiamo una documentatissima memoria storica, continuamente la televisione ci ripropone quegli anni fatti di telequiz, fatti di televisione, fatti di mucche caroline, fatti di bellissime e meravigliose cucine, fatti di detersivi che lavavano bianchissimo, fatti di pulcini neri che diventavano bianchi, fatte di meravigliose materie plastiche che sembrano sostituire ogni suppellettile precedente. Beh, proprio in quegli anni ho un libro nelle mani di cui fra un po' vi rivelerò sia l'autrice sia il testo e il filo narrativo. Ci fu un'inchiesta fatta da un parlamentare socialdemocratico, Ezio Vigorelli, che nel 1951-52 si decisero di fare una commissione parlamentare per la miseria in Italia. Sì, perché l'Italia era un paese che aveva delle caratteristiche molto simili a quelle che noi oggi vediamo quando veniamo chiamati a fare qualcosa, a donare un euro, a fare un SMS per le popolazioni bisognose. L'inchiesta Vigorelli più o meno diceva questo, che negli anni 51-52 2 milioni di nuclei familiari vivevano in case sovraffollate, ben 870.000 in abitazioni improprie, quali grotte, soffitte e cantine in Italia. Nel complesso, oltre un quarto delle famiglie italiane veniva giudicato con un tenore alimentare insufficiente, in modo grave, quindi si faceva la fame in Italia. E viveva in condizioni disumane di esistenza. Ad esempio, in Sicilia, nel comune di Scicli, i parlamentari visitarono i quartieri delle grotte dove 4.000 persone vivevano in antri scavati nella roccia. A Modica, 1500 nuclei familiari dividevano con gli animali i propri miseri ricoveri. Nella provincia di Ragusa, intere famiglie si spostavano per i raccolti stagionali e la spigolatura del grano, restando fuori casa anche mesi, conducevano una vita precaria. I bambini e gli anziani dormivano all'addiaccio per accumulare risorse necessarie alla sopravvivenza. Questo negli anni 50, negli stessi anni che da lì a poco creeranno con la televisione questo mito dell'Italia che risorge, Alberto Sordi, i palazzinari, le prime vacanze, via dicendo. Beh, oggi vorrei riflettere proprio sull'Italia di quegli anni e per farlo lo faccio assieme a una signora che è arrivata faticosamente, perché è passata attraverso le manifestazioni, da poco nello studio, che è Paola Rossi. Paola Rossi, buongiorno. Buongiorno. Paola Rossi è assistente sociale da più di 50 anni. È specializzata in formazione, è autrice del libro Sette paia di scarpe, storia di un assistente sociale, edizione Maggioli. Paola Rossi, lei ha attraversato tutto quello che ho appena accennato sulla mia miserrima esperienza nel nostro paese. La sua storia comincia da molto più lontano. Lei addirittura ha conosciuto anche l'impero e le colonie. Sì, io stavo per nascere a Mogadiscio se mia madre non avesse avuto un tumore e avesse dovuto rimpatriarsi molto rapidamente per essere operata in Italia. In colonia c'erano solo medici militari praticamente. Perché suo padre era un funzionario dello Stato. Quindi... Era un funzionario dello Stato, sì. Persona da cui ho preso moltissimo, perché era una persona di gran integer e di grandissima levatura morale. Sì, sono finita anche in campo di concentramento perché gli inglesi ci rimpatriarono a un certo punto. Sì, quando l'Italia perse l'impero. Quando perse l'impero, fummo rimpatriati e attraversammo il deserto su camionette, un'avventura così, finì in campo di concentramento e poi fui rimpatriata con le navi bianche del Papa, che erano le due ammiraglie della flotta italiana. Sì, perché gli uomini venivano mandati in Kenya in campi di concentramento perché non combattessero, perché le donne tornavano. La mia famiglia fu amputata di mio padre e del mio fratello di 16 anni, perché quelli di età inferiore invece venivano rimandati in patria, e quello di 15 anni tornò con noi in patria. E ricordo benissimo questa vicenda, anche se ero piccola, perché avevo 5 anni circa, e mi ricordo il re e la regina che vennero ad accoglierci prima di fuggire. Devo commentare, ci vennero ad accogliere a Napoli, e mia madre, che si era sentita una fondatrice dell'impero, ma comunque era investita da una missione, si sentì, dopo tutte le traversie che aveva subito, si sentì, come dire, questi nostri re che venivano a salutarci, si sentì riaccolta. Ecco, questo è importante, Paola Rossi, perché per far sentire al nostro pubblico che lei ha vissuto tutta la lenta sfumata. Sì. Lo splendore dell'impero, la caduta dell'impero, la fine della guerra e la rinascita. Facciamo un salto temporale, arriviamo agli anni in cui ha messo a punto la sua vocazione di occuparsi sociale, gli anni in cui il paese rinasceva dalle ceneri di una guerra, da un impero finito, da un'infinità di situazioni, l'Italia rinasceva. Noi di quegli anni sappiamo, perlomeno le persone più giovani ci ascoltano, soltanto l'aspetto positivo, l'aspetto della rinascita, della ricostruzione, della felicità degli anni in cui si parlava di boom e di crescita economica. Ma in realtà cosa c'era sotto, di cui si parlava poco in quegli anni? Beh, a Roma c'erano i borghetti che avevano accolto una... Qua parliamo 48 circa, più o meno? Parliamo del 55. 55, quando io ero già nato, quindi. Ecco. Nel 55 io ho cominciato a frequentare i corsi di servizio sociale e ho finito nel 57 con la laurea, allora sì, era un diploma. Come le è venuta la vocazione di occuparsi di sociale? Che era in quel tempo era quasi unica retaggio delle organizzazioni religiose, ne occupavano preti e monache. Sì. Una laica si occupasse di sociale era già una vocazione abbastanza singolare, no? Certo, ma è in una scuola laica. Ecco, diretta da un religioso ma laica, profondamente laica. Ma c'erano anche i corsi fondati e diretti da Calogero, non era una... La professione di assistente sociale è nata quando c'è stato un famoso convegno di Tremezzo, nel quale si pensò a come risollevare le sorti di questo paese e si trovarono tre punti focali. Uno era la sanità, uno era la previdenza e l'altro era l'assistenza sociale. Quindi nascevano quelli che erano i fondamenti dello Stato sociale. I fondamenti che oggi sono in parte in discussione, però nacquero allora con un'idea ben precisa. Di quell'epoca credo che sia superstite soltanto Adriano Ossicini, perché gli altri, che erano personaggi di grande spessore culturale e di impegno politico, non ci sono più. E si decise, si pensò a una figura che proveniva dal mondo anglosassone che aveva una profonda valenza di tipo democratico. Che era l'assistente sociale. Che era l'assistente sociale. Termine non esisteva ancora in Italia. No. No, c'era stata sì un tentativo in epoca fascista al Celio, una scuola durata poco, che però come dire, aveva come obiettivo soprattutto l'indottrinamento delle persone più deboli, no? Sì, era una scuola di partito. Una scuola, insomma, sì, molto. Cioè, si erano presi, si era cercato di innestare in un ideologia di tipo fascista quelli che erano i portati che venivano dal mondo anglosassone. Invece no, negli anni 50, certo, nei primi anni 50 in Italia si affrontò seriamente il problema del sociale. Del sociale. E, qual era la situazione del paese però? Se possiamo, io ho citato le parti più paradossali del rapporto Vigorelli, soprattutto il Meridione, ma anche a Roma. Facciamo un esempio a Roma. A Roma c'erano i Borghetti, il Borghetto Prenestino, io lo ricordo particolarmente perché sotto gli archi dell'acquedotto si erano costruite, appoggiandosi agli archi, una serie di casupole, mattone su mattone. Se non ci fosse il cinema neorealista e Pasolini non ce le ricorderemmo queste certo, cose. Con fogne all'aria aperta e situazioni. Perché erano i muratori che cercavano di venire a Roma, di inurbarsi. Da dove venivano? Da tutta Italia. In particolare nelle campagne trovavi soprattutto, sempre nelle casupole costruite tufo su tufo, trovavi soprattutto veneti, e abruzzesi, ma veneti. Cioè vivevano come in un campo nomadi, anzi in condizioni certo, peggiori. In condizioni peggiori, senza acqua, senza luce, in condizioni veramente, se non si allacciavano abusivamente, cosa che si fa ancora oggi, no? Nei campi nomadi. E queste persone avevano bisogno anche di conoscere, che avevano acquisito uno status diverso sul piano della legittimazione dei loro diritti civili. Non lo sapevano perché erano profondamente ignoranti. La maggior parte delle persone non avevano fatto neanche le elementari. Ma è vero, lei, il suo libro scrive che in certe borgate, in certi agglomerati che si cominciano a fare, le persone nemmeno riuscivano a parlare tra di loro. Bastava venire da regioni differenti e non riuscivano a comunicare tra di loro. Eh no, perché un veneto non parlava sicuramente siciliano. Come fossero stranieri. Certo. Quindi l'unità d'Italia in realtà è stata fatta realmente negli anni 50 dalla televisione. Sì, sì, di questo sono assolutamente convinta. Fermiamoci solo un istante. Paola Rossi 800240024, vedo già qualcuno sta chiamando. Stiamo cercando di tracciarvi un racconto con una testimone diretta che normalmente vi capiterà di aver visto o sentito accennare semplicemente per gli appassionati di voi di cinema neorealista al cinema o in qualche documentario viene mandato d'estate come riempitivo la notte in televisione. Ma come sei cresciuta, Ma pare in altro. E che devo dire, sta sempre uguale? Che c'è un fiobborino. Oh, rispondi meglio a tua madre, sa? E che ho detto? Meno male che ti sono venuta a ripiare e che ti porto subito a Roma. Se no sai qua come mi diventavi te. Che mi porti a Roma? E che ce ne vengo a fare? A far compagnia a Ciceruacchio? Ma che vuoi passare la vita qua? Ti piace proprio la zappa? No. Ma ti sei imparato a leggere e scrivere almeno? A dritto, mi commesso al mondo un fio per farlo diventare un burino, se. Ma che te dirà il cervello? Dimmelo. Ma non lo sai i sacrifici che ho fatto? Ma non lo sai che ho dovuto sputare sangue per poter arrivare al punto di portarti a casa con me? A fare una vita da cristiani? Questa è Mamma Roma, è Anna Magnani che parla con il figlio. Mi sembra fosse a Val Melaina ambientato, faceva la prostituta. Sì. La prostituta che era il mestiere unico che potevano fare molte donne per mantenere la famiglia. Ecco, il fenomeno della prostituzione è stato toccato, era qualcosa di cui non si parlava molto in quel periodo, oggi se ne parla meno, si vede lo stesso, ma allora è abbastanza legato comunque alla necessità, alla fame. Sì, sì. Non certo si prostituivano per la borsa all'ultimo grido, no, si prostituivano per pane. Io ho lavorato con le prostitute, ovviamente. La legge Merlin peggiorò o migliorò le cose da quel punto di vista? Da quel punto di vista fece scomparire il fenomeno nella sua, come dire, nella sua espressione ufficiale. Ufficiale, ma lo riportò nell'anonimato e nell'incontrollabilità. Si costruirono anche delle assistenze per queste donne, presupponendo appunto che si prostituissero per mantenere i figli, no? E per questo io fui chiamata ad occuparmi della chiusura della casa chiusa di Frosinone, perché appunto si presupponeva che sarebbero venute in massa al... Bisognava reinserire, diciamo, le ospiti, sì, di questa casa. Sì, sì. Ma anche provvedere ai figli, che sarebbero stati i loro mantenuti, no? In realtà così non fu. Proprio la situazione di Mamma Roma, in effetti. Si sommerse il tutto e presero altre strade. Ecco, fermiamoci solo un istante, sentiamo l'ascoltatore Paolo, così cominciamo a sentire qualche testimonianza, poi riprendiamo questo punto, perché avevamo delle fattispecie nel nostro paese, soprattutto nella zona di Frosinone, che vale la pena di ricordare. Paolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, finalmente riesco a parlare con lei. Bisogna avere fede. Negli anni 60, perché io sono nato nel 56, negli anni 60 mi sono trovato che ho stato dal Veneto, visto che parlavate prima dei muratori veneti, in Piemonte, e non avendo nessuna proprietà, nessuna conoscenza, cosa, ci siamo trovati ad abitare, mio papà si è trasferito per lavoro, in un tugurio, senza pavimento, che ancora esiste quella casa e viene usata come grotta per il presepio vivente. Ce la viveva in una grotta, lei che può parlare alla radio, grotta, che vive il suo tempo. No. In una grotta no, ma in una casa che proprio veramente aveva dei suttelletti e non aveva nulla, capisce? Proprio. La sua è una situazione molto singolare, paradossale, o era condivisa da quello che lei ricorda da altre persone? Era un fenomeno diffuso. Era un fenomeno abbastanza diffuso per quegli anni, perché c'era a quel punto questa emigrazione orizzontale, la chiamo io, e praticamente da una regione all'altra, pur essendo nel ricco nord e cosa, però eri nella condizione che, non avendo proprietà, non avendo niente, partivi da niente e ti trovavi ancora con niente, ed eravamo parecchie persone, e andavamo a prendere i vestiti, i quaderni, appunto nelle associazioni cattoliche, che allora c'era l'associazione cattolica, c'erano... Già esisteva il patronato scolastico, Paola Rossi? Sì, esisteva, io me lo ricordo, sì, da piccolo, il patronato scolastico. Sì, quei quaderni con quella copertina nera, con i bordi rossicci, con le pagine... Lo ricordo per i più giovani, nelle mie elementari, e nelle elementari che ricordo il nostro ascoltatore, all'inizio dell'anno scolastico si segnavano, con un gesto che oggi sarebbe inconcepibile, i ragazzi bisognosi che venivano assistiti al patronato scolastico. La maestra dava a questi ragazzi, erano i figli dei contadini che venivano, ricordo, prima elementare, anni 1960, i figli dei contadini venivano scalzi in una scuola rurale vicino a Perugia a scuola. Gli venivano dati dei quadernetti, quadernetto nero, quattro matite, cinque colori, il minimo indispensabile. Paola Rossi, rinquadriamo questa situazione. Io questa situazione l'ho vissuta appunto al Borghetto Prenestino, quando ancora ero tirocinante e andavo la sera, perché solo la sera rientravano a casa questi lavoratori, per parlare con loro, per spiegare loro delle cose, per dare un minimo di educazione su cosa potevano ottenere, a che cosa avevano diritto, e anche notizie proprio minime. Per Quindi non solo sussistenza materiale, ma... strumenti di emancipazione. Ecco. A Frosinone io queste situazioni le ho trovate e mi sono state ricordate da un articolo di Scalfari, che credo sia comparso sull'Espresso, è stato ripubblicato in una piccola raccolta, dove appunto si parlava di queste case senza pavimento. E a Frosinone addirittura le persone facevano fuoco su questo pavimento. E i bambini, era facile che si ustionassero. Si ustionavano, perché quando cominciavano a camminare non erano sorvegliati, ci cadevano sopra, o col viso. Guardi, ho ancora queste immagini terrificanti. Io ricordo i miei compagni di classe con la faccia bruciata, era facilissimo. O era con l'acqua bollente o con il fuoco. Ecco, sul fuoco, oppure ci si sedevano sopra, ci cadevano seduti, quindi questi genitali cotti. Guardi, io mi ricordo queste cose con estrema angoscia. Ci fermiamo solo un istante, Paola Rossi, a dare la linea alle informazioni della borsa. Continuiamo 800240024 tra un istante. Quando sono arrivati i marocchini, stiva a fare la sfoglia. Noi stavamo aspettando gli americani, la cioccolata. Dice, arrivati gli americani, tutti col fazzoletto, invece erano arrivati i diavoli. Rosetta non era svenuta. E tutto quello che era successo, lei l'aveva veduto con i suoi occhi e sentito con i suoi sensi. Non mi ricordo che mi sono attaccata a mia madre. E allora essa ci hanno dato una scarpata in fronte, al momento l'ammazzavano. E a me mi hanno trascinata, botte pure, perché io non ci volevo andare. I marocchini mi hanno ammazzata, mi hanno portato via, mi hanno violentata, mi hanno scarnita tutto, un faccio tutta sgrambiata. Le botte che mi hanno dato, avevo 11 anni e mezzo. Pensavo di morire, sì. 800240024, stiamo facendo un racconto dell'Italia del dopoguerra, ciò che si nascondeva, di cui poco si parla, dietro il boom economico, insomma, come eravamo negli anni in cui anche noi eravamo abbastanza miserabili. Lo facciamo con Paola Rossi, un'assistente sociale, specialista e formatrice, autrice del libro Sette paia di scarpe, storia di un assistente sociale, Maggioli editore. Ci sta raccontando quella che era l'inizio della sua vita e professione di assistente sociale nell'Italia macerata, in questo caso anche macellata al dopoguerra. Questo brano tratto da La storia siamo noi, sono interviste alcune donne marocchinate, un'altra cosa di cui si sa poco. Con la salita del fronte degli alleati e la ritirata dei tedeschi, ci fu in particolare un momento in cui un generale francese, un comandante Jouen, per incentivare le sue truppe nordafricane, marocchine, a combattere in maniera radicale i tedeschi, promise 50 ore che potevano fare quello che volevano, dicendo: ci sono belle donne, c'è buon vino, c'è oro, se voi riuscite a sconfiggere il nemico, a far sfondare il fronte, per 50 ore potete fare quello che volete. E hanno fatto quello che hanno voluto. Sono state violentate 60.000 donne, sodomizzati 8.000 uomini, molti mariti, padri e fratelli impalati perché non difendere le loro donne. Il risultato di tutto questo divenne un lavoro particolare per l'assistente sociale. Sì, devo dire che a Frosinone si parlava poco, fu se ne un parla fenomeno, tuttora molto poco di sì, questa cosa. Un fenomeno, ma lì localmente era un fenomeno di cui si vergognavano collettivamente. Logicamente. Io arrivai lì che nulla sapevo di queste cose, perché ero una ragazza molto giovane, venivo dal Friuli, insomma, non sapevo nulla. Scoprì queste cose attraverso i racconti delle donne, che erano comunque anche loro molto reticenti. Questa vergogna collettiva, oltre che individuale, fu nascosta proprio. No, ma c'è stata una rimozione pubblica, anche sì, politica, di sì, questa cosa. Non sì. Se ne parla quasi per niente. Invece l'esito quale fu? L'esito, a parte i dati che ho dato io, sconvolgenti del momento, per anni l'assistente sociale cosa ha dovuto affrontare? Si doveva occupare dei bambini. Quelli che le madri avevano tenuto con sé erano comunque quelli di pelle bianca. Quelli di pelle scura io non li ho neanche mai visti, perché furono ricoverati in un istituto e crebbero in questo istituto. E che fine hanno fatto? E non lo so, fino a 18 anni sicuramente a carico dell'assistenza pubblica, ma io perché non li ho neanche mai visti. Andavano nascosti perché era una prova tangibile, sì, di quello che era, sì, accaduto. Sì, erano stati proprio eclissati, non se ne sapeva nulla. E le donne, comunque, ecco, avevano perso qualunque dignità all'interno della comunità locale. Perché bene o male, insomma, erano quelle che portavano i segni e avevano erano la riprova tangibile della incapacità di tutelarle. Di... Ecco, cosa si poteva fare per queste donne al tempo? Al tempo lo Stato ha assegnato aveva assegnato una cifra, una pensione per marocchinate di lire 5.000. Adesso non so se sono. Io ricordo che ancora 10-15 anni fa mi occupai di questo problema, ancora rivendicavano la pensione, sì, c'era sì, ancora sì. un problema di riconoscimento, come fosse proprio una ferita di guerra a sì, tutti gli effetti. Ma lo era di fatto, insomma, non si capisce perché. Sì, non ci doveva. Fu anche uno strascico sanitario molto lungo. Certo, perché poi appunto le malattie venere si diffusero anche in relazione a questo, insomma. Ma lei pensi che comunque questi erano erano nelle campagne, la gente viveva in questi tuguri costruiti tufo su tufo senza nessuna logica, con questi focolari, come le ho detto, e mangiavano pochissimo, la carne era pressoché sconosciuta, tranne qualche pollo, qualche uovo, questi non avevano niente. Io dovetti occuparmi di vedere che qual era il tenore di vita e che cosa poteva essere dato per crescere i bambini delle persone che finivano in carcere, dei padri, in genere padri, che finivano in carcere. E qual erano i reati per cui finivano in carcere? Beh, piccoli furti. Piccoli furti. Questa era la realtà. Comunque così imparai a conoscere la carbonella, perché era l'unico modo per fare il fuoco, quindi io dovevo quantificare quanta carbonella serviva alla famiglia per cucinare, dovevo quantificare la carne per una volta alla settimana, le uova due volte alla settimana, e facevo i conti. Io ero una giovane ragazza di famiglia, non avevo nessuna attitudine a questa cosa, ma lo dovetti imparare. Mi ha colpito una parte del suo libro che le dice, mentre analizza questa situazione, cioè una carenza alimentare da paese del terzo mondo, in televisione, nei bar, la gente andava a vedere La Sciora Doppia, quindi sì. c'era l'altra Italia, quella che noi conosciamo, quella di Mike Buongiorno, dei Montepremi, sì. delle vacanze al mare, quindi era grossissima la forbice del nostro paese, evidentissima. Beh, tutti quelli che erano inurbati, vivevano al centro del paese, frequentavano il bar il giovedì sera, me lo ricordo ancora, affollatissimo e gremito proprio di persone per vedere sto Mike Buongiorno, il quale ha dato un segno di benessere, di rinnovamento, di insomma, ha aiutato le persone a pensare ad altro. Non so quanto questo sia stato ecco, mi positivo, interessa anche ma... capire qualche episodio legato proprio alla maternità all'infanzia. C'era un fenomeno molto percepibile nel suo libro, che era quello delle ragazze madri. Sì. Erano periodi anche di grande euforia e la gente logicamente si amava, era anche l'unica maniera, e anche forse l'unico passatempo gratuito. E c'era un fenomeno molto diffuso, anche per ignoranza, per poca conoscenza dei sistemi appunto di prevenzione o di controllo, di ragazze madri. Che fine facevano, a seconda del censo, a seconda della loro classe sociale? Le ragazze madri erano comunque come dire, designate a espiare le loro colpe. Erano delle colpevoli. E questo era, come dire, nella dottrina cattolica anche, non certo nella formazione che io ho avuto, che da un prete laico, improntato alla filosofia laica. Potevano venire e venivano in massa da tutta Italia a Roma, soprattutto dal sud e dalla Sardegna, per partorire. Le mandavano a partorire. Un po' erano ragazze che facevano le domestiche o al massimo le commesse a Roma, alcune anche studenti. Ma sedotte dai datori di lavoro, diciamo. Sedotte dai datori di lavoro o dal soldatino con cui uscivano la domenica e il giovedì pomeriggio. E rimanevano incinte. Dopodiché venivano ripudiate, diciamo così, e chiedevano aiuto. Nel corso della gravidanza l'Omni aveva una o due forse a Roma, case famiglia dove le ospitava. L'opera maternità e infanzia. Sì, aveva queste strutture. Dopo il parto dovevano decidere il da farsi, o riconoscere il figlio o non riconoscerlo. Se non lo riconoscevano, il bambino veniva al brefotrofio, veniva allevato lì. E devo dire che il brefotrofio, che ha avuto un suo merito, cioè ha salvato molti bambini dalle malattie, dall'abbandono, insomma. Però invece le celate chi erano? Le celate, quelle un po' più ricche. Ecco, queste erano quelle che i parroci e i vescovi mandavano a Roma. Era un'opera pia all'interno del San Giovanni, maternità per eccellenza a Roma, dove partorivano in genere quasi tutte le donne del popolo, e che venivano accolte riservatamente. Cioè avevano l'anonimato. nell'anonimato. Si diceva, la ragazza va a passare le acque, sta un periodo in sanatorio. Sì, va è andata a lavorare, a studiare. E invece andava a partorire. E invece andava lì. Dopodiché anche lì o il bambino veniva lasciato alla pubblica assistenza e quindi non riconosciuto, oppure veniva con la mamma al brefotrofio o la famiglia inventava una qualche soluzione. Comunque c'era tipo un numero di orfanelli impressionante, orfanelli, sì, di abbandonati. Subito dopo la guerra il brefotrofio ha accolto molte migliaia di bambini, molte migliaia. Una scena famosa del film, del mondo in cui Alberto Sordi li vendeva agli americani. Sì, c'è un periodo che sì, gli americani comprarono i figli degli italiani come se fosse merce. Ecco, però questo avveniva, erano le madri stesse, come in quel film, che consegnavano questi bambini. Per avere una vita migliore. Per avere una vita migliore. Il brefotrofio invece dava in affidamento i bambini o a Baliatico, quindi sempre a Frosinone, sì, oppure li dava subito in adozione. Ma insomma, c'erano delle grosse resistenze. Era più semplice adottare quel periodo. Era più semplice dare un figlio, prendere un figlio in adozione. Sì, era più semplice sul piano burocratico. Comunque si procedeva in questa maniera. L'istituto non poteva fare adozioni, faceva affidamenti, cioè un provvedimento amministrativo, sì, di fatto. Dopodiché la gente, i genitori, andavano alla Corte d'Appello e istruivano una pratica. E chiedevano di essere lottati. 800 24 0024, tra un istante dopo le informazioni del traffico. Buongiorno. Si chiama Giovanni Battista. Ha fatto i 12 mesi l'altro ieri. Ed è sano come un pesce. È vero, Giovanni Battista? Sapete cosa gli manca per essere davvero felici? Dei veri genitori, una vera mamma e un vero papà. E lui, anche così piccino, può essere già d'aiuto ai suoi familiari, perché ha una sua dote, una discreta somministrazione di roba e anche un po' di danaro, che la nostra pia casa passerà due volte all'anno, a Santa Croce e a San Carlo. E per una famiglia di povera gente. 800 24 0024, stiamo raccogliendo le testimonianze di un assistente sociale che segue il nostro paese sin dalla rinascita, sin dal dopoguerra. È Paola Rossi, che ha scritto 7 paia di scarpe, storia di un assistente sociale, Maggioli editore. Questo è un brano tratto dall'Albero degli Zoccoli. Sì. Vanno a prendere il bambino del Pio Istituto e c'è questo incentivo che viene dato, una, sì, piccola dote. Sì. Accadeva anche nella sua esperienza. Sì, sì, sì. Il brefotrofio di Roma dava 6.000 lire al mese per tenere questi bambini, e le persone venivano dalla campagna. Ma c'era una tradizione nel Frusinate, che era il Baliatico. A Roma c'era una casa privata, si chiamava La Nutrice, un'agenzia che collocava bagli, perché le signore di Roma non allattavano, quindi tenevano. Ma la balia a sua volta aveva avuto un figlio, quindi che aveva dato a qualcun altro. Certo, ed era in genere la madre, la suocera, che custodivano questo bambino. È vero che lei, quando era piccola, suo padre, la balia che si erano portata in Africa non funzionava? No, non si era portata in Africa. L'avevano a Belluno. No, dov'era? Vabbè, a Belluno. Avevano comprato, credo, una capra. Avevano comprato una capra dopo, perché mio padre era molto, aveva un sacco di inventiva. Ha comprato una capra che nessuno sapeva mungere, la quale tirava calci a tutti quanti. Sentiamo un attimo Francesco. Francesco. Sì, buongiorno, siamo, ecco, da Napoli. Sì. Saluti a lei e alla sua ospite. No, niente, io sono ultimo di 5 figli, io ho 50 anni, i miei fratelli maggiori sono degli anni 50. Diciamo che nato negli anni 60, sono nato rispetto a loro nell'90, anche se anche io ho patito. Ma i racconti che mi fa mia madre, che fortunatamente è ancora viva e lucida, cioè praticamente io parlo attraverso i suoi racconti, sono qualcosa di allucinante per quello che mi dice. Assomigliano a quello che sta dicendo la nostra ospite. Ma di parecchio, forse anche peggio. Faccio un esempio. Napoli, se lei conosce Napoli, abitavano ai quartieri spagnoli, mm-hmm, al decimo piano di un palazzo vecchissimo, quindi senza ascensore, su una terrazza praticamente, dove fu costruita una casupola fatta di lamiere, che praticamente di notte, quando pioveva, ci pioveva dentro. E ai miei fratelli, la mia mamma li copriva con coperte di plastica praticamente. Ah, con dei teli di nylon, sì. Sì, bravo. Non c'era il bagno, non c'era acqua. erano belli sempre rossi rossi, perché sì, lì su in terrazza si vedeva un bel sole, ma quando c'era cattivo tempo. Purtroppo due di questi fratelli li ho persi, io ho pensato anche all'Eternit che c'era anche sopra, e poi un giorno mi è venuto in mente la curiosità di andare a vedere questa casupola. E c'è ancora? È ancora lì, sotto forma di deposito, di legno buttato lì, insomma, per essere conservato. E c'è ancora anche l'Eternit, magari? C'è ancora l'Eternit, certo. Come no? Come in gran parte d'Italia. E allora poi ogni giorno, la mia mamma è anziana e vive da sola, non ha bisogno di badante niente, fortunatamente, quando la volta ogni giorno che la vado a trovare, si rimette in mezzo alla discussione. E gli faccio queste domande. È qualcosa di allucinante. Io dico sempre che quando un anziano muore è una biblioteca che brucia. Sono dei racconti favolosi che un giorno o l'altro mi deciderò di scriverli e poi... Grazie Francesco, magari... sentiamo Gianni. Grazie. Gianni, buongiorno. Buongiorno, io sono del 1939 e volevo raccontare un aneddoto di come ci si arrangiava in quei tempi. Io abitavo nel quartiere, diciamo così, più popolare di Modena, dove c'erano, allora c'erano molti disoccupati più che operai. E avevo un amico che si chiamava Giulio, che mi ricordo sempre perché a certe cose ci si pensa quando si diventa grandi, e aveva una famiglia, il papà era ritornato dalla guerra malato di polmoni, era disoccupato, la mamma non lavorava, c'erano i cinque fratelli. Lui era il più grande, aveva 10 anni. E questo ragazzo aveva trovato un lavoro come garzone da macellaio. E quindi? E quindi lì c'erano gli americani da noi, c'era un campo di americani. Sì. E niente, lui li accompagnava, anch'io andavamo assieme, li accompagnava, c'erano alcune signore che offrivano prestazioni abbastanza disponibili. Sì. Con tutto il massimo. Beh, l'indotto, laddove ci sono militari, c'è sempre un indotto di intrattenimento da quando esiste il mondo. Questo. Quindi la sintesi, così la lascio. La sintesi è che questo ragazzo, volevo ricordarlo perché sì. Manteneva la sua famiglia con queste cose. Cioè portava le signorine agli americani. Ecco. Ritornando all'assistenza, allora a Modena assistenza per queste famiglie non c'era. Poi successe che aprirono l'Alleanza Cooperativa Modenese, che sarebbero poi le Ipercop attuali. Mm. Ecco, questa gente cosa ha fatto? A tutte le famiglie dei disoccupati aveva dato un cartoncino e tutti i giorni ogni componente della famiglia riceveva una quota di pasta e di pane. Quindi una forma di assistenza. Grazie. Paola Rossi. Mi interessa, proprio perché siamo quasi vicini alla conclusione, la figura delle donne. Noi abbiamo parlato di immigrazione, di italiani che partivano, andavano in Canada. Le donne che rimanevano, qual era la loro situazione? Erano di fatto le matriarche, che si facevano carico di tutta l'assistenza ai figli, spesso numerosi, perché questi figli nascevano, poi sti padri emigravano. Io ricordo il Canada come meta privilegiata per i frusinate. E questi uomini non sapevano né leggere né scrivere nella maggior parte. Comunque, una volta arrivati lì, si accasavano diversamente e abbandonavano completamente la famiglia. Queste donne venivano anche da me e io cercavo di rintracciare questi padri attraverso la Croce Rossa Internazionale, il Servizio Sociale Amico. Non avevano nessuna intenzione di tornare. Non erano rintracciabili nella gran parte, perché poi il Servizio Sociale Internazionale lavorava soprattutto nelle metropoli, non certo nelle foreste. E le donne sperdute. Come si arrangiavano? E le donne si arrangiavano venendo a chiedere aiuto, e non solo ai servizi, ma anche e soprattutto ai grandi patron della situazione, cioè i politici che erano lì e come dire, contrattavano. Beh sì, così si creavano gli elettorati, i potenti, certo, di quel tempo. Sentiamo, certo. Peppina velocemente, che è stata puericultrice a Brefotrofi. Pronto? Sì, Peppina. Sì, posso? Sì, velocemente, che stiamo chiudendo. Ecco, io ascolto sempre Radio 24, sì. Questa mattina sono qui emozionatissima perché ho fatto la scuola da puericultrice proprio a Befotrofio di Roma, a Villa Panfili. A Villa Panfili, citato nel libro della signora Rossi. Sì, e io non devo fare molte osservazioni sull'andamento, però quello che non ho mai dimenticato, perché nell'anno 64-65 io vedevo sempre somministrare come alimenti delle pappe a riso, indipendentemente dall'età dei bambini, e un frullato. Non ho mai visto somministrare un qualcosa di omogenizzati. Vabbè, comunque... sì, mi sembra chiaro, Peppina, la devo lasciare perché la sigla ci porta via. Peppina dice, signora Rossi, e qua ci lasciamo perché la sigla è implacabile, che al tempo anche la dieta nei brefotrofi era chiaramente limitata, erano i tempi... Ma insomma nel 64 no, non credo, c'erano questi medici che regolavano in tutto la vita del bambino, c'erano carenze di tipo... per la crescita non c'era nulla, non c'erano strumenti di crescita. Diciamo che l'Italia degli omogenizzati e dei figli improvvisamente spigolati ancora avrà qualche anno per poter venire. Grazie infinite a Paola Rossi, grazie a quanti hanno chiamato, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.